Blum. Appio Moscone, anche l'altro giorno, battendo contro l'ombra sul muro, si intontì. Poi anch'io, disperso, intontito, giù in fondo alla camicia. Fortuna che io. Virag, volto impassibile, ride con ricche tonalità femminili. Splendido! Una cantaride nella patta o un impiastro di mostarda sul cinci? Farfuglia golosamente con bargigli di tacchino. Dindo mio, dindo mio, dove siamo? Apriti sesamo, risuscita! Srotola rapidamente la pergamena e legge col naso da lucciola, scorrendo all'incontrario sulle lettere che aggranfia. Fermati, amico mio, porto a te la tua risposta. Le ostriche del Red Bank ci incomberanno fra poco. Sono l'arcicuoco. Quelle bivalde succolente ci possono essere d'aiuto, e anche i tartufi del Périgord, tubercoli sloggiati da una porca signoria onnivora, erano insuperabili in caso di debolezza nervosa, ovvero viragite. Puzzano, ma uzzolano. Scuote la testa con scherno chiocciante. Faceto, col monocolo all'occhietto, sternutisce. Amen. Blum, assente. Da un punto di vista oculare, il caso bivalvo della donna è peggiore. Sesamo sempre aperto, sesso fesso. Perciò hanno paura dei parassiti, di tutte le cose che strisciano. Eppure Eva e il serpente contraddicono. Non fu un fatto storico, tuttavia. Ovvia analogia con la mia idea. I serpenti poi sono ghiotti del latte di donna. Serpeggiano per miglia e miglia di foresta onnivora, avidi di prosciugarle il petto a forza di succhiolentare, come quelle tacchineggione di matrone romane di cui si legge in Elefantuliasis. Virag, la bocca sporgente in rigide grinze, occhi petrosi perdutamente chiusi, salmodia in modo esotico. Che le vacche, con quelle loro poppe pese che hanno. Che poi si è saputo che. Blum. Badate che mi metto a urlare. Vi chiedo scusa. Ah, bene. Ripete. Spontaneamente a cercare la tana dei sauri per affidare i capezzoli alla loro avida suzione. La formica munge l'afidio. Profondamente. L'istinto governa il mondo. In vita. In morte. Virag. Testa piegata da una parte, inarca la schiena e le spalle ali aggubbite, scruta la falena coi cisposi occhi bovini, tende un artiglio incornato e geme. Falena, falena, chi è il caro Gerald? Caro Ger, sei tu? Mio Dio, è Gerald! Oh, fieramente, io temo che assai forte si bruci. Per favore, c'è qualchetuno per impedimentare catastrofe con agitazione di sceltissimo tofagliolo? Miagola. Micio, micio, micio, micio. Sospira, si tira indietro e abbassa gli occhi in tralice, con la mandibola rilasciata. Bene, bene. Ehi, riposa incontanente. Improvvisamente fa schioccare a vuoto le mandibole. La falena. Sono una cosa piccina piccina che a primavera svolazza in sordina in tondo alla lucernina. Nei dì lontani sono stata regina, ma ora non faccio che questa manfrina con la mia luccia, la luccia piccina. Cin! Si precipita contro il paralume lilla, sbattendo rumorosamente le ali. Belle, belle, belle, belle, belle, belle sottanelle! Dall'entrata sinistra in fondo Henry Flower avanza con due passi striscianti verso la parte sinistra del boccascena. Indossa mantello scuro e sombrero spiovente impennacchiato. Porta una ribecca dalle corde d'argento intarsiata e una pipa Jacob con lunga cannuccia di bambù e fornello di creta modellato a testa di donna. Porta calze di velluto scuro e scarpine con fibbie d'argento. Ha il volto romantico del Salvatore con riccioli fluenti, barba rada e baffi. Le sue gambucce e i piedini da passerotto sono quelli del tenore Mario, principe di Candia. Si aggiusta i polsini di pizzo, pieghettati, e si inumidisce le labbra con un colpetto della lingua amorosa. Henry, a voce bassa e suadente, toccando le corde della sua chitarra. C'è un fiore che fiorisce. Virag, truculento, mascelle serrate, fissa il lume. Bloom, serio, fissa il collo di Zoe. Harry, il prode, si volta con la giogaia pendula verso la pianola. Steven, tra sé. Suona a occhi chiusi. Imito papà a riempirmi il ventre coi baccelli dei porci. Ma ora basta. Mi leverò e andrò da mio. Forse questo è il. Steve, ti trovi in gran distretta. Bisogna andare a trovare il vecchio Deasy o telegrafare. Il nostro colloquio di stamani mi ha fatto una grande impressione. Benché le nostre età. Scriverò più a lungo domani. Sono un po' brillo, tra l'altro. Tocca ancora i tasti. Ora viene l'accordo in minore. Sì, non molto però. Almidano Artifoni gli tende un rotolo di musica con un vigoroso lavorio di baffi. Artifoni, ci rifletta. Lei rovina tutto. Flori, cantaci qualcosa. D'amor la vecchia dolce canzone. Steven, senza voce. Sono un artista molto finito. Lynch, te l'ho fatta vedere la lettera che parla del liuto? Flory, con un sorriso sciocco. L'uccello che sa cantare e non vuole. I fratelli siamesi, Filippo Briaco e Filippo Lucido, due anziani di Oxford muniti di falciatrici, appaiono nel vano della finestra. Ambedue hanno come maschera la faccia di Matthew Arnold. Filippo Lucido, dai retta a uno sciocco. C'è qualcosa che non va. Cerca un po' di risolvere la cosa con un mozzicone di matita. Da bravo giovane idiota. 3 sterline e 12 scellini ha ricevuto. 2 biglietti, una sovrana e 2 corone. Solo che i giovani sapessero. Mooney Anville, Mooney sur Mer, al Moira. De Larchet, all'ospedale di Hall Street. Da Burke, eh? Ti tengo d'occhio, bada. Filippo Briaco, impazientemente. Oh, balle, caro mio, va all'inferno. Ho pagato. Potessi soltanto capire la faccenda delle ottave. Reduplicazione di personalità. Chi è stato che mi ha detto il suo nome? La falciatrice comincia a farle fusa. Ah, sì, Zoe Maus Has Agapò. Mi pare proprio d'esserci già venuto. Quando è stato? Non Atkinson. Ho il suo biglietto in qualche posto. Mac qualche cosa. Ah, Mac. Eccoci. Mi ha parlato, aspetta, di Swinburne, o mi sbaglio? Flory. E la canzone? Steven. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Flory. Lei non è mica di Maynooth? Assomiglia a qualcuno che conoscevo. Steven. Ora ne sono uscito. Tra sé. Ma bene. Filippo Briaco e Filippo Lucido. Le falciatrici ronzanti provocano dei rigodoni dei fili d'erba. Ma bene, benissimo. Uscito, uscito. A proposito, ce l'hai il libro, il coso, il bastone? Sì, eccolo, sì. Bene, benissimo, uscito ora. Tienti in forma. Fa come noi. Zoe, c'è stato qui un prete 2 sere fa che ha fatto le sue funzioni tutto abbottonato. Non c'è da nasconder nulla, gli fo io. Lo so. Che hai la coroncina in testa. Virag, perfettamente logico dal suo punto di vista. La caduta dell'uomo. Rauco, con pupille dilatate. All'inferno il Papa. Niente di nuovo sotto il sole. Io sono quel Virag che ha svelato i segreti sessuali di monaci e verginelle. Perché ho lasciato la chiesa di Roma. Leggere, prete, donna e confessionale. Penrose. Flipperty Jeepert, si dimena. La donna, slacciandosi con dolce pudicizia la cintura di giunchi, porge la sua ioni super umida all'ingam dell'uomo. Dopo breve tempo l'uomo fa dono alla donna di pezzi di carne ferina. La donna dimostra gioia e si copre di vesti di piume. L'uomo ama la sua ioni selvaggiamente, col gran lingam bello duro. Grida, Coactus volui! Poi la donna incostante vuole andarsene in giro, l'uomo forte afferra la donna per il polso, la donna stride, morde, sputa veleno. L'uomo, ora fieramente adirato, colpisce il grasso yagana della donna. Si corre dietro alla coda. Piff, paff, popò. Si ferma, starnutisce. Si manipola l'arnese. Prrrt. Lynch. Spero che lei abbia dato la penitenza al buon padre. Nove gloria per aver sparato a un vescovo. Zoe spruzza dalle narici un vapore da tricheco. Non ha potuto avere la comunicazione, solo sensazione, vede? Una paglia secca. Bloom, poveraccio. Zoe, noncurante, solamente per quel che gli è successo. Bloom, come? Virag, un rictus diabolico di nera luminosità, gli contrae il viso, mentre tende in avanti il collo scarno. Alza un muso da idiota nato e ulula. Verflucht Goim! Aveva un padre, 40 padri, non è mai esistito. Dio maiale, aveva due piedi sinistri. Era Giuda Iachia, un eunuco libico, bastardo del Papa. Si appoggia tutto sulle zampe anteriori tormentate, gomiti inarcati, l'occhio agonizzante nel collo cranio piatto e abbaia sul mondo ammutolito. Un figlio di puttana! Apocalisse! Kitty. E Mary Shortall, che era dentro con la sifilide, che si buscò da Jimmy Pigeon, che Pia Azzurro ebbe da lui un bambino che non poteva inghiottire e soffocò di convulsioni nel letto, e tutti abbiamo dato qualcosa per il funerale. Filippo Briaco, grave. Qui vous amis dans cette fichue position, Philippe. Filippo Lucido, allegro. C'est elle, sacré pigeon, Philippe. Kitty si leva le spille dal cappello e lo posa giù tranquillamente, dandosi un colpetto ai capelli tinti. E mai più vezzosa, più avvenente testa di riccioli seducenti, fu vista su spalle di puttana. Lynch si infila il cappello della donna. Lei glielo strappa di testa. Lynch ride. Metchnikoff è andato a inoculare queste delizie alle scimmie antropoidi. Flory annuisce. Atassia locomotoria. Zoe allegra. Datemi il vocabolario. Lynch. Tre vergini sagge. Virag, battendo i denti dalla terzana, con un fiotto di bava gialla sulle labbra cartilaginose da epilettico. Vendeva filtri amatori, cera bianca, fiore d'arancio, Panther, il centurione romano, la polluta con i suoi genitori. Cacciò fuori una lingua di scorpione, vibratile e fosforescente, la mano sulla forca delle gambe. Messia, le ha spaccato il timpano. Con urla inarticolate da babbuino, dondola le anche con ciniche contrazioni spastiche. Ben Jumbo Dollard, rubicondo, atticciato, naripiloso, grandi barbo, cavo il recchiuto, petti villoso, altierinico, grassi popputo, si fa avanti, lombi e genitali costretti entro un paio di mutandine da bagno nere. Ben Dollard, facendo schioccare le nacchere nelle grosse zampe felpate, canta la tirolese allegramente col suo basso barilottono. Quando l'amore assorbe l'ardente anima mia. Le vergini sorella Callan e sorella Quigley si precipitano oltre le corde del quadrato, eludendo gli inservienti, e gli saltano addosso a braccia aperte. Le vergini, in delirio. Big Bang! Ben mio cri! Una voce. Acchiappate quello là, quei mutandoni! Ben Dollard, battendosi la coscia in un accesso di risa. Provateci un po' ad acchiapparlo! Henry, carezzandosi sul petto una testa femminile separata dal busto, mormora. Cuore tuo, amore mio, pizzica le corde del suo liuto. Mappari, Virag, cambiando le pelli come un serpe e mutando le piume molteplici come un uccello. Canaglie! Sbadiglia lasciando apparire una gola nera come il carbone e si chiude le mascelle con una punzonata del rotolo di pergamena. Dopo aver detto questo, io quindi me ne andai. Addio, addio, ti raccomando. Drac. Harry Flower si pettina rapidamente baffi e barba con un pettine da tasca e si dà ai capelli una lisciatina allo sputo. Col brando in aria, striscia verso la porta, l'arpa barbara tracolla. Virag raggiunge la porta con due goffi salti da trampoliere, a coda ritta, e attacca abilmente contro il muro un volantino giallo pus, fissandolo con una testata. Il volantino K11. Vietata la fissione, strettamente confidenziale. Dottor I. Franks. Henry, tutto è sciolto. Virag si svita la testa in un batter d'occhio e se la ficca sotto braccio. La testa di Virag. Quack! Escono di scena separatamente. Steven, voltando la testa verso Zoe. Avresti preferito il parroco battagliero che fondò l'errore dei protestanti? Ma guardati, Dantistene, il saggio canino, e dal modo in cui finì Ario, l'eresiarca, agonia nel cesso. Lynch, per lei è sempre lo stesso Dio. Steven, devotamente, e signore sovrano di tutte le cose. Flory, a Steven, scommetto che sei un prete spretato, o un monaco. Lynch, ma certo, figlio di cardinale. Steven, peccato, cardinale. Monaci del cavatappi. Sua eminenza, Simon Stephen, cardinale Dedalus, primate d'Irlanda. Appare sulla soglia, vestito di sottana rossa, sandali e calze. Sette scimmieschi accoliti nani, pure in rosso, peccati cardinali, gli reggono la coda del manto, sbirciando sotto. Porta un tubino ammaccato di traverso sulla testa, i pollici alle ascelle e le palme delle mani aperte. Ha attorno al collo un rosario di sugheri che gli termina sul petto in un cavatappi a forma di croce. Liberando i pollici, invoca la grazia dall'alto con gran gesti ondeggianti e proclama con pomposa turgidità: Benedicite